Radio 24 Reportage. L'ultima trincea di Napoli, tra realtà e fiction, di Raffaella Calandra. Cioè, come è successo qua, succede anche in altri quartieri, in Iraq, oppure, cioè, uccidono bambini appena nati. Là ci sta la guerra. Qui, è la stessa cosa, è una guerra pure qua. Un dagno e un nezzo, dato a mia savì, e di la televisione, o solo un fuoco in casa, e capri o aiuto, che scendono a basso, con milioni, occhi surate, sfumate cocaina, tirano che mezzo, tirano una tua pezza, che tu volni pacca per senza niente, e ti trovano fiera a mucca per 20 euro. Lasciato alle spalle il sole cocente e la luce che brilla sulle rigiole di antichi palazzi, entriamo in una delle ultime trincee di Napoli, qui al Rione Sanità, dove più di un secolo fa nacque Totò e dove ora un 17enne è stato ucciso non si sa ancora bene perché, in una di quelle notti in cui la paranza dei ragazzini, come l'hanno chiamata, terrorizza la città. Hanno un motorino sotto al sedere, gli ultimi aspiranti camorristi, una AK-47 in mano e sparano, quando va bene, solo a finestra e saracinesche, per fare paura o per portare il messaggio dei boss, ma sempre più spesso sparano anche per uccidere, per punire sgarri sulla droga, per conquistare nuovi territori o perché così comanda chi vuole imporre la propria legge. Il rombo delle pistole torna a farsi sentire e Napoli torna di nuovo in guerra tra paure e polemiche dal sapore già preelettorale. I suoi amici che fanno così, che cosa fanno? A volte scendono a pace, cercano qualcosa di lavorare, dipende, va a Ciro, va a sparare, va a rubare, si cosa così. Sai, uno da Ciro a qualcuno, basteranno un minuto, rimane la mano, vanno pure a Ciro, un problema non so quello. Ciro fa il meccanico, proprio come Luigi Galletta, e ha la stessa età del suo collega di Forcella, ucciso quest'estate perché si era rifiutato di truccare dei motorini. Sia l'uno che l'altro sapevano perfettamente a cosa dovevano servire quei mezzi più potenti, perché è sulle due ruote che si muove il messaggio di chi, nel vuoto lasciato dagli arresti, cerca di farsi riconoscere come capo della zona. Io ho anche di amici così, ma purtroppo madre e padre che non lavorano, i ragazzi hanno bisogno di soldi, cioè ognuno vuole ancora doppio quello che vuole. Alla fine il coraggio riesce, alla fine Napoli è bellissima, però non ti può dare niente. Che stai? Scendono e si mettono a disposizione dei boss per qualsiasi cosa. Ecco come comincia l'arruolamento di questi bambini di paranza che stanno terrorizzando il centro storico di Napoli. Spesso non sono figli di famiglie malavitose, ma giovani con ambizioni da guappi, giovani della sanità o del vicolo della sposa nei quartieri spagnoli o ancora di Secondigliano. Non dunque veri camorristi, ma si atteggiano a tali, riflette Michele Spina, ora dirigente dell'ufficio prevenzione della questura, dopo la caccia alle piazze di spaccio di Scampia. Nella sanità il clan ha subito circa 80 arresti, lasciando un vuoto che in questo momento è stato riempito da giovanissimi che non hanno lo spessore criminale per gestire gli affari camorristici con modalità tipiche della camorra e che quindi fanno scorribande armate. I ragazzi che normalmente si sarebbero dedicati a crimini minori, ma non meno fastidiosi e non meno gravi, come gli scippi e le rapine, cercano di scalare le gerarchie interne dei gruppi criminali con azioni più eclatanti, che spesso sono frutto di emulazione di eroi negativi che loro vedono nei film. Gianni Savastano. Sono sostanzialmente ragazzi che si atteggiano a camorristi più che esserlo. Parlano di loro e alla fine loro parlano e si muovono proprio secondo il copione di Jenny Savastano, protagonista di Gomorra, la serie, e solo qui poteva succedere allora che un poliziotto vero, Pasquale Russo, diventasse un criminale per finta sullo schermo. O forse riesci a ragionare in quel modo perché stai con i criminali quasi tutto il giorno quando lavori. Quando interpreti questi personaggi e ti cali nel loro ruolo, devi avere bene presente che cos'è la filosofia di queste persone. Quando passi in macchina, sei in divisa, sei con l'auto della polizia, ti guardano, ti lanciano questi sguardi di sfida, come per dire tu prova, vienimi a controllare, tanto io non ho paura. ti dico pure chi sono, ti dico quello che faccio, tanto non ho paura. Belli in fila riedi, tutti impostati, che sia il bar o la sala giochi. Nel continuo e ripetuto scambio tra realtà e finzione in questa città, a volte bastano pochi secondi a stabilire la vita e la morte in certi vicoli dove il sole non arriva mai, come bastano pochi gradini, poco lontano da qui, nel cimitero delle Fontanelle, a separare il regno dei vivi e quello dei morti, e a volte non capisci più dove finisce l'uno e comincia l'altro. Alfa 01, centro, sono in strada, direzione sanità, cosa trovo? Dottor Spina, siamo praticamente nel cuore del quartiere Sanità, dove appunto c'è stato l'omicidio del 17enne, quartiere affollatissimo adesso, pieno di gente, pieno di mercato. Noi siamo adesso in una volante, ma la presenza dello Stato in questo quartiere qui, come è accolta? Mi sembra di dare una risposta banale se dico che la percentuale di criminali che abita il quartiere ci accoglie male, nel senso che non è felice di vedere la polizia. Se non fossimo nel cuore di Napoli sembrerebbe la recita di un copione, ma invece è realtà che quando entro nelle stradine del rione Sanità a bordo di una volante della polizia, un uomo dalla strada urli "Iati venne, non tornate", tradotto "andate via e non tornate". Ecco verificato sul campo in che modo i rappresentanti dello Stato siano accolti in quartieri difficili come questo, dove vivono 32.000 persone, con un tasso di disoccupazione giovanile al 60%, con nessun asilo e con un disincanto che sa di rassegnazione da una parte, ma dall'altra anche di ostinata negazione. Per cui nella pizzeria Concettina ai Tre Santi si arriva a dire che qui si sta benissimo e non c'è nessun problema specifico. Un refrain, a dire il vero, ripetuto purtroppo in molte parti della città. In questo momento si sta vivendo molto bene. Nonostante tutto quello che è successo? Nonostante, sta migliorando giorno per giorno. Anche se tutti quanti parlano di questo quartiere per il terribile omicidio che c'è stato. Può succedere dappertutto, non è solo nel quartiere Sanità, dappertutto a Napoli. Questa è la vita che loro scelgono. Come ho scelto di fare il pizzaiolo, loro hanno scelto di fare quell'altra cosa. Come a me mi fa piacere di lavorare per 30-40 euro al giorno, e a loro non ci fa piacere di lavorare per 30-40 euro al giorno. Va bene quella vita là. Non giudico quello che fanno e quello. La colpa è sempre della politica. Ma che gli dite ai vostri figli per cercare di stare più tranquilli voi? Ne a scendere. Vieni presto. La nostra storia sembra scritta da un cartone alla TV. Tu ragazzina innamorata, ma viziata un po' di più. Sfrecciano i motorini mentre l'odore di una margherita piegata al libretto, una delle migliori della città, avvolge questi vicoli traboccanti tanto di vita quanto di un rischio di morte, percepita ora così vicina come un'auto negli ingorghi dell'ora peggiore. Così le giornate diventano una lotta per la sopravvivenza anche per i più giovani. Cioè, come fai a pensare che la tua figlia sta a camminare e succede questo? Possibile. Ma io sono grande, no? Sono fidanzata. Io scendo, ma quando mi ritiro non passo per qua. Mi faccio girare per fuori, per Capodimonte, andi là e me ne salgo. Perché è impossibile, non può passare con qualche capo. Perché avete paura la sera a passare? Sì. Perché quella notte che è morta Jenny, io sono passata alle 4:10 per là. E c'era il coprifuoco, pur che non mi facevano niente, ma penso che paura me la mettono. Che vedo, io ne vinto, ma sono mostro, riavolo in corpo. E quello che fanno, sparano, non è normale sparare. Non sopporti la sua gelosia, ossessiva quasi da follia. Eppure, anche quando i morti si sono ripetuti quasi ogni giorno, tutti giovani, anche quando uomini con la pistola in mano hanno messo in fuga un'intera piazza nel cuore del centro storico, l'ultima guerra di Camorra, qui sotto al Vesuvio, è diventata motivo soprattutto di polemica politica. In un'area appesantita già da un clima preelettorale, attacca Giuliana Di Sarno, il presidente della terza municipalità, quella del rione Sanità. Che è un quartiere che purtroppo è vittima del 10% del malaffare della Camorra. A figli, a famiglie e a difficoltà a poter gridare con voce che c'è la camorra che li sta distruggendo. C'è tanta paura. La cosa più grave è che non c'è una volontà di sedersi ad un tavolo e dire programmiamo degli interventi organici per il recupero di questo quartiere. Noi non moriamo fortunatamente sotto le bombe, ma moriamo come se stessimo in guerra, perché camminare per strada e poter correre il rischio che un figlio non ti torni a casa perché c'è un proiettile vagante, voglio dire, non è più un una casualità, ormai è un fenomeno. Quindi dire Baghdad è, per fare un paragone, con una città che è sotto assedio, e questo quartiere è sotto assedio. Non ci sono teatri, non c'è musica, non ci sta cinema, non c'è nulla. Abbiamo bisogno di dare alternative a dei ragazzi. Dire che a Napoli non c'è la camorra significa voler mettere la testa sotto al terreno. Napoli non è solo il lungomare liberato. Napoli, bisogna rendersi conto che c'ha mille facce, e in queste mille facce c'è purtroppo la brutta faccia della camorra. Se un sindaco non guarda in faccia e non si rende conto di questo, vuol dire che probabilmente non ha guardato bene la sua città. E allora basta girare un angolo, lasciarsi il sole alle spalle per trovarsi nell'ultima trincea di Napoli, dove nelle stesse strade dove sono nati pezzi di storia e di mito cittadino, ora si muovono i protagonisti autentici di fiction televisive in un drammatico continuo scambio tra realtà e finzione. È un grande amore, e se domandi al cuore ti dirà la verità. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.